Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Il primo libro di cui parliamo oggi è La vita buona nell'economia e nella società di Lorenzo Caselli. Buonasera, professor Caselli. Buonasera. Lorenzo Caselli è professore emerito all'Università di Genova, docente di etica economica e responsabilità sociale delle imprese. Quindi la vita buona nell'economia e nella società, ecco, in un momento in cui, in anni in cui non si parla che di crisi economica, di difficoltà, di esigenza di superare anche in un certo senso un modello di sviluppo che ha mostrato i suoi limiti, ha mostrato la corda e che pone dei grandi problemi a livello sociale, a livello economico, a livello di possibilità di crescita e quindi di offrire una risposta soprattutto ai giovani. Ecco, la vita buona nell'economia e nella società. Allora, professor Caselli, in sintesi, qual è il filo conduttore di questo libro? Io parto da una constatazione di questo genere. L'uomo messo con le spalle al muro deve ricostruire se stesso. Il sentiero è stretto ma percorribile, perché non mancano segni di inquietudine e anche di speranza. Mai come in questo momento, lei già lo diceva, si avverte il bisogno di etica nelle relazioni sociali, nelle relazioni politiche, nelle relazioni economiche. Ci si interroga in ordine al senso del vivere, in ordine alla giustizia, a come non fare male agli altri e soprattutto ci si accorge che non si è soli. Ebbene, in questo momento l'economia è tanto invadente quanto impotente di fronte ai problemi che sono sul tappeto e che la crisi rende di drammatica evidenza. Forse i paradigmi tradizionali della scienza ufficiale, il principio del tornaconto individuale, il darwinismo sociale per cui i più forti debbono vincere e prendere tutto, sono in crisi. Attraverso questi criteri non si capisce ciò che succede e soprattutto non si risolvono i problemi. Ecco, quindi un approccio che non mette speranza, diciamo, in un modello sociale, in una struttura sociale, quanto nel cambiamento di prospettiva di ogni singola persona. Occorre collegare micro e macro, partendo da questo presupposto. L'economia, innanzitutto, è una scienza sociale, è un agire dell'uomo per l'uomo in vista del bene di tutti. E allora io dico, e questo è un leitmotiv del libro, in economia più strade sono possibili. I problemi non hanno una e una sola soluzione. Non esiste, affermo nel libro, il capitalismo, non esiste l'economia di mercato. Possono esistere più capitalismi, o meglio più economie di mercato, a seconda di come vengono combinati gli elementi costitutivi, gli ingredienti, il privato, il pubblico, l'uso delle risorse, i rapporti tra capitale e lavoro. E allora più economie di mercato sono possibili. E per quanto ci riguarda, come europei, abbiamo il discorso dell'economia sociale di mercato, che è una grossa scommessa. Ma dire che in economia più strade sono possibili significa fare affidamento al senso di progettualità, al senso della responsabilità, una responsabilità eticamente fondata in vista del bene comune. Ci sono grosse prospettive e forse anche ci sono anche dei segni di speranza. Ecco, proprio in questa prospettiva, il valutare l'economia di mercato, che spesso è messa sotto accusa, come uno strumento, come qualcosa, come una piattaforma che potrebbe permettere anche un'espressione più compiuta, più precisa anche dello spirito etico, dello spirito di solidarietà. Quindi criticare l'economia di mercato può essere una cosa limitata e parziale, perché l'economia di mercato può essere, come dicevo, appunto uno strumento su cui appoggiare una nuova realtà sociale. È proprio questo, sottolineo l'affermazione che lei ha fatto. Il mercato è uno strumento, non è un fine, il che significa che il mercato deve essere inserito in precise coordinate culturali, etiche e sociali. Se è così, il mercato diventa garante di libertà, il mercato diventa stimolo per l'innovazione e per la crescita. Ecco, in questa prospettiva lei parla spesso appunto di partecipazione a un impegno appunto sociale che possa mettere in relazione maggiormente le persone. Concretamente che cosa vuol dire creare dei meccanismi di maggiore partecipazione? Innanzitutto i problemi che abbiamo sul tappeto non sono risolvibili né dagli automatismi di mercato né da impostazioni centralistiche, pianificatori e così via. Occorre dare fiducia a ciò che sta in mezzo tra lo Stato e il mercato, che è la società civile, che è fatta di gruppi, di associazioni, di movimenti, di imprese, in modo particolare di imprese medio-piccole. Lì ci sono le energie per crescere. E allora, affinché questo avvenga, c'è la necessità del coinvolgimento, c'è la necessità della fiducia, c'è la necessità della partecipazione. È una parola che può essere anche ambigua, partecipazione. Si tratterà nei vari ambiti di capire in che modo la partecipazione può configurarsi. Un conto è la partecipazione in un quartiere, nella città, e si parla di bilanci di partecipazione. Si parla di bilanci sociali anche a livello comunale. Nell'ambito dell'impresa le esperienze possono essere molteplici, si può andare da un minimo, l'informazione, la consultazione, a un massimo che è il coinvolgimento decisionale, che è la Mitbestimmung tedesca, che è anche recepita dalla Società per Azioni Europea, cioè è l'impresa che è degli stakeholder, gli stakeholder in qualche modo devono concorrere, cooperare per l'accrescimento del valore. Accrescimento del valore non è semplicemente accrescimento del profitto. Il profitto è una componente del valore, ma ce ne sono tanti altri. Allora in tutto questo c'è questo convincimento che la complessità per essere gestita, per essere governata, questo lo diceva già Edgar Morin un po' di anni fa, la complessità per essere governata richiede coinvolgimento e richiede al tempo stesso solidarietà. Ecco, quindi anche guardare a dei valori non solo economici, ma mettere questi valori non solo economici all'interno dell'economia. Lei cita per esempio Mauro Magatti, dove afferma che la bellezza, la creatività, il senso della giustizia, il gusto per l'eccellenza, il riconoscimento del merito, lo spirito di solidarietà sono ingredienti indispensabili per la crescita. Sì. Per concludere, professor Caselli, un programma un po' ambizioso. Ma vale la pena di viverlo, proprio perché l'economia chiede umanizzazione e trascendimento etico. Non c'è sviluppo economico che non è anche sviluppo sociale e sviluppo culturale. E tutto questo credo che sia radicato nella nostra storia, anche nel contributo che il nostro paese ha dato allo sviluppo economico. Non c'è solo l'economia anglosassone, lotaringica, ma abbiamo anche il contributo di genovesi, l'economia civile e la nostra storia che dobbiamo riportare in superficie, un modo nostro anche di vivere e di intendere l'impresa, nostro e europeo al tempo stesso. Quindi possiamo concludere guardando con fiducia in questa prospettiva, alle prospettive di un paese come l'Italia? Grazie. Grazie professor Caselli, autore, lo ricordo, del libro La vita buona nell'economia e nella società. Sono 230 pagine per 15 euro e nelle edizioni Lavoro. E dopo aver parlato con il professor Lorenzo Caselli del libro La vita buona nell'economia e nella società, parliamo di un altro libro. L'autore è Stefano Rodotà, il titolo è Il terribile diritto. Stefano Rodotà è molto conosciuto, è stato al centro nelle scorse settimane anche della politica con la proposta del Movimento 5 Stelle di nominarlo Presidente della Repubblica, ma Rodotà è essenzialmente un professore, uno studioso, un esperto di diritto, è professore emerito di diritto civile dell'Università di Roma La Sapienza ed è stato tra gli autori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ecco, questo libro abbastanza imponente, sono più di 500 pagine, edito dal Mulino, raccoglie molti studi di Stefano Rodotà degli ultimi anni, degli ultimi decenni, dal 1980 ad oggi, studi in cui si mette in luce il tema essenziale della proprietà privata. La proprietà privata è uno dei fondamenti della teoria liberale, ma gli stessi liberali ammettono il fatto che la libertà privata deve essere limitata laddove si parla di beni pubblici, di beni di cui il godimento deve essere pubblico, deve essere di tutti, e dove il bene comune deve prevalere rispetto all'interesse privato. Però nello stesso tempo la proprietà privata è un elemento essenziale per garantire i diritti dei cittadini, per garantire la garanzia che ogni cittadino abbia appunto del proprio lavoro, della propria proprietà, dei propri diritti all'interno della società, e soprattutto di fronte alla necessità che la società abbia appunto delle basi anche di proprietà per poter crescere, per poter svilupparsi. Quindi questa riflessione sulla proprietà privata, sul rapporto tra proprietà privata e beni collettivi è al centro di questo testo, di questi testi, anzi di questi studi di Stefano Rodotà, in cui si affianca appunto la dottrina sociale alla dottrina giuridica, si affiancano gli approfondimenti di carattere materiale sul diritto, gli approfondimenti invece sul fronte più politico, perché comunque anche il diritto è dipendente dalla realtà e dalla dinamica della politica. Quindi vi ricordo questo testo di Stefano Rodotà, Il terribile diritto, studi sulla proprietà privata, edito dal Mulino, sono 500 pagine per 42 euro. Nella prima parte del programma avevamo parlato del libro di Lorenzo Caselli, La vita buona nell'economia e nella società, delle edizioni Lavoro. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Fabio Cantadori in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma e le altre puntate di Economia in Pagine può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.